Voglio un mondo comico, voglio un mondo che faccia ridere, e un cielo comodo che qualcuno si affaccia a rispondere. Voglio svegliarmi quando voglio da tutti i miei sogni. Voglio trovarti sempre qui ogni volta che io ne ho bisogno. Voglio volere tutto così, voglio riuscire a non crescere. Voglio portarti in un posto che tu proprio non vuoi conoscere. Voglio tenere qualcosa per me, qualcosa che sia per me, per me. Voglio il tempo libero, sì, ma libero proprio ogni attimo, e alzare il minimo con la vita che mi fa solletico. Voglio restare sempre sveglio con tutti i miei sogni. Voglio tornare vergine ogni volta che io ce n'ho voglia. Voglio volere tutto così, voglio riuscire a non crescere. Voglio portarti in un posto che tu proprio non puoi conoscere. Voglio tenere qualcosa per me, qualcosa che sia per me. Se sembra ridicolo, un mondo facile che paga lui e vuol fare lo splendido.